Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di giovani, parliamo di anziani, parliamo di mondo del lavoro. Lo facciamo parlando del libro L'inganno generazionale, scritto da Alessandra Del Boca e Antonietta Mundo, che sono con noi. Buonasera ad Alessandra Del Boca. Buonasera. Alessandra Del Boca è professore ordinario di politica economica all'Università di Brescia ed è esperta del mondo del lavoro. Antonietta Mundo, buonasera. Buonasera. Ha lavorato come attuario all'Ente Nazionale della Previdenza Infortuni e all'INPS, quindi una diciamo conoscenza soprattutto statistica, un modo di guardare alla realtà dal punto di vista dei dati. E L'inganno generazionale è già un titolo che è tutto un programma, il falso mito del conflitto per il lavoro. E chiedo subito ad Alessandra Del Boca perché questo titolo. Questo titolo ci è venuto naturale non appena, studiando il problema sia della disoccupazione giovanile sia del problema del conflitto tra le generazioni e delle possibilità di avere giovani e anziani sul mercato del lavoro, del rapporto in cui si trovavano sul mercato del lavoro, ci ha fatto capire che le idee che circolavano erano in gran parte totalmente sbagliate. E quindi con immensa passione ci siamo buttate a fare a pezzi i numeri e le teorie e abbiamo svelato degli inganni. Ecco, Alessandra Del Boca, allora l'inganno qual è? Allora, dico due inganni. Un primo inganno è che la disoccupazione giovanile sia al 40%, invece essa è intorno al 10%. E il secondo inganno è che gli anziani che permangono al lavoro per effetto della legge Fornero non portano via opportunità di lavoro ai giovani, perché i due gruppi, i giovani e gli anziani, non sono sostituti, bensì complementi. Saranno fuori 10 anziani, non è detto che ci siano 10 giovani con le caratteristiche richieste dal mercato del lavoro. Due elementi appunto da approfondire, che sono approfonditi in questo libro. Il primo aspetto è eminentemente statistico, riguarda i dati. Antonietta Mundo, perché chi ha interesse a stimare di più i disoccupati giovani rispetto alla realtà? E poi in fondo c'è il fatto che questi disoccupati giovani sono poi in gran parte ragazzi che studiano ancora. Esattamente, ma non so se c'era un interesse dietro, ma cioè una falsa interpretazione dei dati, sicuramente amplificata anche dai media. In realtà questi ragazzi studiano ancora e diciamo che il tasso di disoccupazione, che è un indicatore comunicato dall'Istat, non è confrontabile, è un po' distorto, diciamo, non è confrontabile con le classi di età successive. Questo ci ha portato a scoprire che la vera disoccupazione, il vero problema della disoccupazione dei giovani non sta tra i 15 e i 24 anni, ma nella classe di età superiore, 25-34, i giovani adulti, che hanno un tasso di disoccupazione elevatissimo se rapportato alle altre classi di età. Loro stanno intorno al 17,9 come tasso di disoccupazione nel 2016 e al 12,9 come incidenza della disoccupazione sulla popolazione, che è l'indicatore che noi indichiamo, cioè noi diciamo che è migliore questo indicatore, l'incidenza sulla popolazione, e anche questo indicatore è pubblicato da Istat, ma non viene propagandato. Ecco, ma qual è la ragione, Antonietta Mundo, di questo fatto che i giovani in Italia soprattutto faticano a trovare lavoro? C'è un problema di studi, un problema di università. Formazione, è un problema di formazione. No, non fanno in tempo, soprattutto i millennial, che è la categoria il gruppo di giovani più adulti, quelli 25-34, sono usciti dall'università con una certa formazione che andava bene nel momento in cui studiavano, ma che, dati i rapidi cambiamenti dell'economia, la digitalizzazione, cioè la rivoluzione industriale che sta avvenendo a velocità supersonica adesso, si ritrovano con delle armi spuntate e non idonee a coprire la domanda di lavoro che viene fatta dalle aziende sempre più avanti, diciamo che sono sempre più avanti rispetto a loro. Ecco, questa problematica ovviamente investe molti aspetti della vita sociale e soprattutto della politica economica, si va appunto dall'educazione, dall'istruzione ai sistemi previdenziali. Vorrei chiedere ad Alessandra Del Bocca, tornando un po' all'elemento appunto del lavoro, come mai la politica attuale sembra privilegiare un'attenzione verso i giovani rispetto appunto alle esigenze, ai giovani che vengono considerati giovani, cioè fino a 24 anni, rispetto alle esigenze che invece nella società dai dati emergono essere dei giovani fino oltre i 30 anni. Ma devo dire che una risposta così da chitto mi verrebbe da dire che fondamentalmente mi pare che la politica economica di molti governi ha sempre guardato alle pensioni e al patrimonio dell'INPS come il prestatore di ultima istanza, no? Come una risorsa finale che aggiusti i problemi di una classe sociale e dell'altra, quindi chiedendo il sacrificio ai pensionati per risolvere i problemi dei giovani o di quelli che restano disoccupati dopo i 50 anni. In realtà, per risolvere questi problemi non servono le pensioni, serve innanzitutto l'intera collettività, che deve dare un contributo di solidarietà, e serve che il governo si doti di politiche della formazione e della ricollocazione, come l'ANPAL sta facendo, ma il povero ANPAL lavora dal 1° di gennaio, quindi ecco. Ecco, spieghiamo cos'è l'ANPAL per chi non lo sapesse. L'ANPAL è l'Agenzia Nazionale del Lavoro che finalmente abbiamo dopo che 30 anni le persone della nostra età si ricordano che sono circa 30 anni che parliamo di un'agenzia nazionale che si occupi del lavoro su scala nazionale rispetto ai collocamenti provinciali, regionali, e che quindi guardi i problemi dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro a livello globale del paese. È chiaro che qui abbiamo il ricollocamento, che è un'arma che per esempio il senatore Pietro Ichino, per la quale il senatore Pietro Ichino ha combattuto molto fortemente e molto giustamente, cioè se ci sono delle persone che o la rivoluzione tecnologica o le competenze lascia indietro e non servono di più all'azienda, devono essere ricollocate e riqualificate, quindi a tutti i livelli, a tutte le età della forza lavoro, sia dai giovani che delle età centrali che delle età mature, ci vogliono gli strumenti per adattarli a quelli che sono le richieste della domanda. Certo. E questo lo deve fare le istituzioni a livello centrale. E nel libro c'è infatti un capitolo che si intitola Digitale, lavori nuovi e lavori che si rinnovano, quindi la necessità di adattare il lavoro all'interno della vita lavorativa, ma anche per chi entra nel mondo del lavoro, alle nuove realtà delle imprese, che sono realtà completamente diverse dal passato. Ma su questo fronte c'è un problema anche di sostenibilità del sistema. Antonietta Mundo, guardando un po' in avanti, le riforme della previdenza che sono state fatte, le riforme del mercato del lavoro che sono state fatte, possono garantire una migliore sostenibilità? Diciamo che si sono fatti grossi passi avanti. Adesso è subentrato un nuovo problema dal 2008 ad oggi, una denatalità molto spinta. Abbiamo 10.000 nati ogni anno in meno, siamo arrivati a quasi 100.000 nati in meno. Se si pensa che 100 anni fa nascevano 38 bambini ogni 1.000 abitanti, 50 anni fa ne nascevano 19, oggi ne nascono 8 bambini ogni 1.000 abitanti, quindi abbiamo una decrescita demografica molto preoccupante, e l'Istat, rinnovando le sue previsioni, ha previsto che nel 2066, ovvero sia tra 50 anni, avremo 7 milioni di abitanti in meno in Italia, nonostante le immigrazioni, perché ormai l'Italia non è più attrattiva dal punto di vista economico per i migranti che scelgono i paesi del nord Europa, preferiscono i paesi del nord Europa, e qui restano quelli meno istruiti e quelli che lavorano nelle campagne. Questo problema porta due ordini di problema: uno di tipo economico, cioè in futuro, essendoci meno persone, ci saranno meno consumi e quindi ci potrebbe essere un ristagno dell'economia. Inoltre avremo meno attivi che pagano i contributi per pagare le pensioni, perché voi sapete che con il sistema di finanziamento a ripartizione i contributi che vengono pagati dai lavoratori servono a pagare le pensioni dell'anno, e quindi il sistema di ripartizione entra in crisi quando diminuiscono i lavoratori che pagano i contributi, e questo è un grosso problema per il futuro. È un problema che si avvita su se stesso, cioè meno ne nascono e meno ne nasceranno, tant'è che la famosa piramide dell'età si sta rovesciando praticamente, sì. Questo lo dicono tutti i demografi, sta diventando una sorta di cono con una base fina molto piccola e un apice molto grande. Ecco, l'apice sono gli anziani, i pensionati, e inoltre sta aumentando la longevità. Certo, quindi... ma gli anziani si chiamano diversamente giovani, non più anziani. Ecco, stiamo in conclusione, dobbiamo chiudere. Io vorrei solo una battuta da Alessandra Del Bocca. In fondo i problemi sono molto complessi, sono molto a lungo termine, di fronte ai problemi a lungo termine è difficile che la politica dia delle risposte immediate, però la finalità di questo libro è anche di affrontare i temi secondo dei dati corretti, dei dati concreti, dei dati soprattutto verificati con la realtà. E questo è l'obiettivo del libro. Poi sui dati ognuno può e deve fare le proprie conclusioni. Alessandra Del Bocca, in 30 secondi. Sì, devo dire che questo libro è stato anche una gioiosa ribellione a tutto quello che circola sia nei media sia nei talk shows, di persone che parlano giusto dicendo quello che gli passa per la testa. Qui io e Antonietta abbiamo lavorato davvero duramente e non ci siamo accontentate del primo dato, ma l'abbiamo letteralmente sezionato, ragionato, pensato e messo in un modello economico, anche se con parole semplicissime. Grazie, grazie ad Alessandra Del Bocca, grazie ad Antonietta Mundo, anche grazie per questo libro, appunto, che ci aiuta a guardare alla realtà con gli occhi della realtà, come è necessario. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo il titolo del libro, L'inganno generazionale, il falso mito del conflitto del lavoro, editore Egea, 170 pagine per 16,50 euro. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.